come Lefty sarò pronto quando arriverà quel giorno. Sarò convocato un viaggio senza più ritorno. Per quanto mi riguarda qua è finito il mio soggiorno. Levati di torno, non toccarmi mentre affondo. Ti presenterai, domanderai come va tutto, ok? Non ti vedo già da un po', sai, ti saluto anche i miei. Sì, boh, ma non saprei, non direi. Sul tracciato giro forte come il mio amico Bacchei. Non ho mai cercato un'elemosina sentimentale. Figuriamoci ora che ho deciso già di andare. Non mi domandare perché non so cosa fare. Anche se ne vengo a capo non lo vengo a raccontare. Via, vado via come in via da Las Vegas. Hai le lacrime sul viso, tanto so che non ti frega. Le mie invece impediscono che io distingo e veda. Mi ha ucciso il mio alter ego, ma imperterrito lui nega. Ma lui ce l'ha tatuata sotto l'occhio. L'effetto dell'alcolico mi ha ormai messo in ginocchio. Pensare avevo smesso, sai da quanto non lo tocco. Piscio sopra le piastrelle mentre nella tazza sbocco. Impazzito, completamente senza controllo. Questa situazione radicata fin dentro al midollo. Me la porto addosso come fosse un francobollo. Portami con te nel pozzo, sai che io non mollo. Non esiste la paura in questo dojo sensei. Ho baciato quel serpente, ti dico lo rifarei. Forse è troppo tempo che dipendo ormai da lei. Incendiavo le mie notti ed ero solo con gli dèi. Invece adesso mi fan compagnia delle sagome blu. Non sono i puffi quelli dentro la TV. Suonan sempre quella musica che mi riporta giù. Fanno a capo a lui, lui, Cypher a.k.a. Belzebub. Rapare del City mentre andremo al Camposanto. Qualcuno abbozzerà, persino un finto pianto. Parecchi non pensavano sarei arrivato a tanto. Nemmeno io comprendo pienamente ciò che canto. Santo, gridano santo, santo subito. Mentre io continuo a graffiare il terreno ruvido sepolto. Ancora respiro come uno stupido affioro. Ma proprio non esco dal suolo umido. Fosse stato un film sarebbe Carlo il morto. Come Tyler dentro a quel finale assurdo. Nessuno più all'ascolto, tanto vale tagliar corto. Per quanto ne so io da qua nessuno è mai risorto. Da tempo nello specchio la mia immagine non è più riflessa. E nelle orecchie la voce più non cessa. Ripete che la situazione qua ormai è compromessa. Non sarà mai come prima, non sarà mai più la stessa. Gara colpo morto, l'ha ammazzato Carlo Pago. Colpo morto, l'ha ammazzato Carlo Pago. Ammazzato Carlo Pago. Gara colpo è morto. Gara colpo è morto.